eccoci qua, buongiorno Giulia Crivelli. Buongiorno. Buongiorno e buon anno, Giulia Crivelli, che oggi si sdoppia per stare con noi sia al mattino che nella consueta orario di Effetto Mondo il lunedì, e quindi ripartiamo anche nel 2020 con la lettura, insomma, dei giornali, sì, internazionali. Tra l'altro prima parlavi, sì, di Golden Globe con Marta, e sui giornali americani c'è molto sulla Me Too, perché inizia il processo Weinstein, e però mi collego al Golden Globe perché per la prima volta dopo 2 anni si è rivisto il colore sul red carpet del Golden Globe, perché negli ultimi 2 anni molte attrici si erano vestite di nero per rispetto alle vittime degli abusi sessuali di vario genere, e quindi ai Golden Globe, cioè su tutti i siti americani, c'era anche un po' di taglia, perché René Zellweger era in un Armani Privé stupendo. Leonardo DiCaprio, coprotagonista insieme a Brad Pitt, che ha vinto un premio, era anche lui in Giorgio Armani, quindi perciò insomma noi ci facciamo, ma c'erano anche tanti abiti di Valentino, tantissimi gioielli di pomellato, insomma eravamo rappresentati. Meno male, almeno lì, perché al cinema non credo che ci sia stato neanche un premio minore per l'Italia. No, probabilmente insomma sicuramente la nuova serie di Sorrentino sul Papa avrà, sì, successo, però insomma non era questo il suo momento di raccolta premi. Vedremo, naturalmente gli auguriamo ogni fortuna. Allora torniamo coi piedi per terra, sì, ahimè, andiamo un po' a caccia di notizie, di spunti su questa grande vicenda che insomma, sta angosciando un po' tutti noi, no? Questa venti, come dire, proprio insomma, di guerra tra l'Iran, sì, e gli Stati Uniti. Guarda, i giornali americani, proprio come per la grande notizia dell'impeachment, hanno i titoli a tutta pagina su questo standoff, cioè questo proprio confronto tra Iran. Il New York Times fa un gioco di parole: anziché backing down, cioè come auspicava Donald Trump, cioè fare un passo indietro, back off, cioè si sono tirati indietro, naturalmente il riferimento è al trattato sul nucleare che era stato firmato faticosamente nel 2015. E mi trovo d'accordo con te sul fatto che insomma tirare fuori le pistole, poi quest'anno tra l'altro ricorrono i 100 anni della fondazione della Lega delle Nazioni, l'antenato delle Nazioni Unite, insomma dovrebbe essere quello il modo di risolvere i conflitti, non appunto a forza di armi. In ogni caso, la domanda che molti giornali americani si fanno è: ma dov'è la pistola fumante? Che era la stessa domanda che la stampa, soprattutto britannica, aveva posto a Tony Blair quando aveva partecipato alla deposizione e all'uccisione di Saddam Hussein. Certo. E quindi sentiamo, se volete, un brano proprio di questo confronto tra Mike Pompeo, che è stato mandato anche a molte trasmissioni, in questo caso la CNN, con un giornalista che gli chiede conto proprio di quando direte agli americani che cosa è successo, ed è molto interessante il confronto. Vi invito a vedere il video, perché il giornalista è serissimo, non si scherza su queste cose, non si fanno battutine come capita di vedere qui da noi. L'argomento è serissimo, si fa una domanda, se non si ottiene risposta si rifà la domanda, con appunto un atteggiamento serio, perché non è un entertainment, è una trasmissione giornalistica. Sentiamo. When do you plan to share evidence with Congress, with the American people, to clear up any questions here? Quindi chiede il giornalista: ma quando avete intenzione, visto che non l'avete fatto finora? Ricordiamo, Donald Trump ha avvertito dell'attacco con i droni soltanto il suo fedelissimo senatore Lindsey Graham. Quando avete intenzione di condividere con il Congresso le prove, evidence, che c'era urgenza di questo attacco? E Mike Pompeo sostanzialmente non risponde, dice: lo faremo prossimamente. Sentiamo ancora un altro estratto. When you say the attacks were imminent, how imminent were they? Were we talking about days? Were we talking about weeks? Altra cosa che ha detto prima Trump e poi ha ripetuto Pompeo, che lo ricordiamo è tra l'altro di origine abruzzese, è il segretario di Stato americano, quindi l'equivalente del ministro della difesa di uno Stato europeo, Trump aveva detto, e poi Pompeo: noi avevamo le prove che ci sarebbe stato un attacco imminente contro gli americani. E il giornalista della CNN dice: ma quanto imminente? Avevate prove che sarebbe successo a giorni, in settimane, in mesi? E anche qui Pompeo non risponde, dice, tra l'altro poi naturalmente dicendo: ci sono delle cose che non possiamo dire per ragioni di sicurezza, sostanzialmente non risponde. Nel frattempo, tra l'altro aspettando, perché ricordate l'attacco è avvenuto tra la notte di giovedì e venerdì, ieri, cioè domenica, Boris Johnson ha telefonato, si è saputo, o comunque ha parlato al telefono con Donald Trump, e quindi i quotidiani britannici parlano di questa telefonata finalmente arrivata tra Boris Johnson e Donald Trump. Boris Johnson è stato tutto sommato, tu parlavi prima di posizioni, sì, sfumate, ha detto: il Regno Unito non piangerà la morte di Soleimani, però adesso dobbiamo veramente puntare a una de-escalation. E sentiamo ancora un brano di Pompeo, perché anche Pompeo ha parlato di de-escalation. President Trump, according to polling, a majority of the American people have never considered him honest, have never considered questo him trustworthy. È, secondo me, interessantissimo, perché il giornalista gli chiede, secondo gli ultimi sondaggi, non secondo la mia opinione, e gli americani si sono sentiti spesso, hanno considerato Donald Trump poco onesto, nel senso di poco trasparente. Molte delle cose che ha detto, poi sottoposte a un fact-checking serio, si sono dimostrate non vere. E la cosa interessantissima è che Pompeo non può contestare questi sondaggi, e quindi dice, no, su questo noi dimostreremo la nostra buona fede, dimostreremo che abbiamo agito nell'interesse degli americani, insomma, proprio una specie di muro di gomma. Lui sì, abbastanza sorridente, come se, insomma, stesse parlando oggi di questo attacco all'Iran e domani magari di una cosa meno, come dicevi tu, che fa meno paura. Ecco, però cerchiamo anche di guardare ad altro, guardare ad altre notizie magari meno, appunto, angoscianti di queste, perché fortunatamente il mondo va avanti. E dove eravamo rimasti in Francia? Eravamo rimasti a un periodo di vacanze all'insegna degli scioperi e, insomma, anche di qualche disagio per i francesi grosso, e di questa trattativa sulle pensioni. Pare che a questo punto Macron, anche qui mandando avanti in realtà il suo primo ministro Edouard Philippe, sia disposto, o comunque stia cercando un compromesso, perché purtroppo lo sciopero non, gli scioperi sì, sono, magari hanno un'intensità diversa, c'è qualche treno ad alta velocità in più, qualche TGV, però comunque la Francia resta paralizzata. Si va verso un gennaio comunque ricco di appuntamenti, e i danni a Parigi sono ancora da riparare, e anzi da conteggiare. Quindi questa è l'apertura di Le Figaro, che poi naturalmente è anche una fotonotizia, in questo caso dedicata insomma, alla seconda giornata di lutto, che dopo quella in Iraq si è svolta ieri in Iran per la morte di Soleimani. Mentre Le Monde affronta questa complessa situazione geopolitica parlando di una nuova rotta della seta, che questa volta passerà per l'Artico. E qui ci colleghiamo anche ai cambiamenti climatici, perché se queste rotte artiche diventano possibili, è anche per lo scioglimento dei ghiacci. Ecco, qui, diciamo, diventa, come dire, una via, si aprono delle potenzialità da un qualcosa che in realtà non avremmo voluto mai vedere, come per esempio gli incendi di nuovo in Australia. Sì, fanno, credo, i giornali che il paese dove i quotidiani danno più spazio a questa vicenda è la Germania. Financial Times ha un approfondimento in prima pagina evocando una figura che risuona familiare anche ai paesi anglosassoni, cioè quella di Roma che brucia e Nerone intanto che si occupa d'altro. In questo caso si occupano d'altro naturalmente i leader mondiali. Tagesspiegel: in Australia 500 milioni di animali uccisi, morti negli incendi. La Welt ha questo incubo Australia, le foto sono senza filtro, credo, sono naturalmente arancioni rosse, e entrambi sottolineano, ricordiamolo perché fa impressione, se voi sovrapponete la cartina dell'Australia agli Stati Uniti, l'Australia è larga quanto gli Stati Uniti, tutto intorno ci sono questi incendi, 5 milioni di acri andati in fumo finora. Se pensate che, con tutto il giusto, la giusta preoccupazione per gli incendi in Amazzonia, quello è stato meno di 1 milione di acri, quindi qui siamo già a 5 volte tanto. Ai, va bene Giulia, va bene, si fa per dire, grazie per oggi, intanto ci risentiamo naturalmente domani. A partire da domani con te Effetto Mondo, ricomincia dunque l'anno anche per quanto riguarda Effetto Giorno. Questa era la prima puntata, io ringrazio Jacopo De Franchi in redazione, Valeria Bernardi in regia, vi lascio ad Hashtag Autotrasporti, ci risentiamo domani.